lasciato un'impronta. Il mio peso in un pozzo, l'uomo nero nascosto nell'ombra. Aperto, se vai, va a finire che finisci ammazzato. Vattene madre, il cuore di lona ho bevuto. Venerare la Circe, certe volte sembrare Cassandra. La camicia intonata a Dio, sempre lui, lui, lui, a spiarmi nell'ombra. Questa vita è pietosa, il ragazzo è sul ponte che ghiaccia. Lentamente va l'onda, sta aspettando un corpo. Passi, io ti avverto, se vai va a finire che finisci ammazzato. Vattene madre, il cuore di loro ho bevuto. Venerare la Circe, certe volte sembrare Cassandra. La camicia intonata a Dio, io ti vengo vicino, ti respiro sul naso ansimante e ci provo un po' gusto, poi abbandono l'affare. Una luce rischiara un sorriso che esplode dal buio e la madre lo osserva e suo diavolo, questo è sicuro. Va a finire che vieni ammazzato. Non ci sono canzoni che rincuorino un cuore agitato. Il bel volto è bestiale, si capisce.